Radio 24. Libera la voglia di fare. Nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile di Maria Latella. Buona domenica, bentornati a Nessuna è perfetta, il programma di Radio 24 che parla di donne, di lavoro, ma anche di tutto quello che attiene alla nostra sfera più personale. Cominciando ogni domenica col ricordare, soprattutto a me stessa, di tenersi lontano almeno un giorno alla settimana dal multitasking, la più grande fregatura inventata dagli uomini per farci sentire inadeguate. E comunque, parlando di multitasking, non possiamo non avere come immagine di fronte a noi quella dei nostri figli, che fanno quattro cose contemporaneamente. Di solito tre hanno a che fare con uno schermo o con delle cuffie. È difficile talvolta penetrare questa specie di bolla che li accompagna. Talvolta è una bolla che accompagna anche noi adulti, ma ha a che fare con la vita quotidiana di genitori e figli, lo spezzare l'involucro virtuale fatto di iPhone, fatto di smartphone, fatto di schermi che tolgono parole, tolgono comunicazione tra gli esseri umani. Ci vuole uno sforzo, forse più da parte degli adulti che da parte dei ragazzi. Cattivi esempi, come dire, spesso si trovano in famiglia, ma a proposito di esempi, di formazione e di cose che vengono da lontano, mi piacerebbe introdurre il nostro primo ospite citando un sondaggio, che è quello, il rapporto settimanale che il politologo Ilvo Diamanti prepara ogni settimana per Repubblica. Quello di questa settimana è stato dedicato alle passioni e il rapporto con la passione che questi giovani hanno. Ecco, lui, il sociologo e il politologo Ilvo Diamanti, parla di passioni tiepide, e io sono curiosa di capire se questo stato di semisonnolenza dipenda dal fatto che appunto ci hanno un po' addormentato con i social media, dove scarichiamo tutta la rabbia, e con gli schermi piccoli o grandi, o se invece non faccia parte un po' del carattere degli italiani. Benvenuto a Nessuna è perfetta, buona domenica, Paolo Mieli, giornalista, saggista, direttore della Stampa negli anni 90 e del Corriere della Sera. Qui rivelo un piccolo conflitto di interesse, perché Paolo Mieli è stato il mio direttore al Corriere della Sera per molti anni. Ecco, c'è un libro che fotografa una condizione che non sembra contingente, sembra quasi una condizione perenne per il nostro paese. Il libro è quello che ha appunto scritto Paolo Mieli, Il caos italiano alle origini del nostro dissesto, libro pubblicato da Rizzoli, ed è una rivisitazione del passato, come Paolo Mieli ci ha abituato a leggere negli articoli che sono pubblicati sulle pagine culturali del Corriere della Sera. Paolo Mieli prova sempre a riflettere sul presente attraverso il passato per capire l'origine dei nostri problemi. A proposito, quali sarebbero i nostri problemi? Ecco, cominciamo da quello che lei ha detto, che il caos italiano, tutti abbiamo l'impressione, tutti possono avere l'impressione che sia una cosa di adesso, proprio di questi giorni, che mai ci siamo trovati in una situazione così caotica in cui non sappiamo come andrà a finire, chi governerà, che ne sarà della nostra economia. Quello che io provo a raccontare è che purtroppo, e sottolineo purtroppo, Queste condizioni noi ce le portiamo dietro dal 1861, dall'anno in cui è nata l'Unità d'Italia. Questo caos si è presentato di decennio in decennio, sempre con un volto diverso, ma un filo conduttore che tiene tutto insieme per 157 anni, ecco, che tiene insieme la nostra storia per 157 anni. Per cui o si cura questo filo, o si recide questo filo, oppure noi elimineremo un caos di una circostanza perché ci si ripresenti alla circostanza successiva. C'è un filo conduttore in tutto questo, Paolo Mieli, ed è un filo conduttore che qui a Nessuna è Perfetta ci preme molto sottolineare. Vale a dire, le classi dirigenti della storia d'Italia dall'unità ad oggi non hanno mai messo alla prova una parte di questo paese, che è quella rappresentata dalle donne, dalle elettrici, dalle cittadine. Ecco, si può pensare che una maggiore presenza di donne nella vita pubblica di questo paese, una maggiore leadership femminile, sempre conquistata sul campo e non ottenuta graziosamente per volontà di qualche padrino. Ecco, se ci fosse una maggiore presenza delle donne nella vita pubblica italiana, potrebbe immaginarsi una relazione più civile tra maggioranza e opposizione in politica, più civile almeno e più costruttiva soprattutto di quanto non abbiamo visto finora? Guardi, sì, nel modo più convinto, non lo dico per fare un omaggio come adesso in una chiacchierata fra uomo e donna, ma è abbastanza incredibile che l'Italia non abbia mai avuto un Presidente della Repubblica donna, un Presidente del Consiglio donna. Questo, e abbia avuto tardissimo, dagli anni 70 in poi, ministri donna, poi spesso che le si dedicava alla sanità, alla scuola, alla famiglia, insomma a cose da, lo metto tra virgolette, da donna. Questo è un segno di ritardo pazzesco rispetto agli altri paesi. Non ci sono partiti, tranne rarissime eccezioni, il Partito Radicale è una di queste, guidati neanche per una stagione da donne. È una cosa di ritardo, non direi neanche asiatico, perché in Asia e in India ci sono state fior di donne alla guida dello Stato. Quindi io non mi posso neanche permettere di dire che è una cosa di tipo orientale o asiatica, non so. Appaia il nostro sistema politico a quelli del mondo più arcaico, del mondo più così meno approdato alle regole del vivere civile. E guardi, non è, lei ha fatto una citazione non a sproposito, perché i due problemi non sono disgiunti: la società che non sa dividersi civilmente, perché negli altri paesi non è che viene naturale, ma si impara l'arte di rispettare il vincitore. Una società eccessivamente maschile, che pensa che la politica si faccia con gli attributi, con la forza, con la violenza, con quelle cose che lei vede nei dibattiti televisivi e anche radiofonici, dove è quel tipo di virilità preistorica che viene messa in mostra anche nel fare politica. E tutto questo è alle radici, anche questo, del caos italiano. Parlavo prima, Paolo Mieli, del sondaggio che settimanalmente Ilvo Diamanti prepara per il quotidiano La Repubblica. Questa settimana mette in luce il fatto che i giovani tra i 25 e i 35 anni denunciano un forte disinteresse rispetto alla politica, alla religione e anche rispetto alla assunzione di responsabilità. C'è un filo conduttore, secondo lei, tra queste passioni tiepide e, per esempio, gli ultimi 30 anni della nostra vita politica? Sì, le passioni tiepide sono quello che fa sì che i ragazzi leggano molto, molto meno i giornali, ma anche si appassionino meno ai temi della politica, a quella che era un'anima che poi li portava, o ci portava, a darci una cultura che sostenesse queste passioni politiche. La si riscontra nell'astensionismo, io non per battere sempre lo stesso chiodo, ma se non si sa, non ci si sa dividere e non ci si, non si sa, non si impara a discutere civilmente, un ragazzo perché mai dovrebbe appassionarsi alla politica? Se ha voglia di fare a botte lo fa su altri terreni, non sceglie più certo. La politica, e quindi la politica dovrebbe essere qualcosa, entrando nel cui mondo si diventa più colti, più maturi, si migliora, si hanno anche maggiori opportunità di andare, di fare un salto nella propria vita sociale o professionale, e non in base alla politica stessa, cioè non diventando un piccolo politico di professione, ma perché quell'arricchimento ti serve. Oggi, ripeto, finché esiste questa modalità molto primitiva di divisione, di demonizzazione del nemico, dell'avversario, la politica scoraggia, non suscita passioni forti. A proposito di passioni, lei da direttore dava consigli molto precisi ai giovani cronisti che lavoravano con lei. Io stessa ne ho ricevuti di preziosi lavorando con lei al Corriere della Sera. Ma oggi ad un ventenne, lei che cosa consiglierebbe? Lei che a soli 18 anni ha cominciato a fare il giornalista all'Espresso, un giornale importantissimo. Mi ricordo che quando appunto a 30 anni lavoravo con lei al Corriere della Sera, i suoi consigli andavano nella direzione di un grande autocontrollo, di una autodisciplina. Svegliarsi presto al mattino, leggere i giornali alle 7:30. E oggi cosa consiglierebbe? Darei lo stesso consiglio che ha dato a lei alcuni anni fa, che è quello di darsi una disciplina, poi divertirsi quanto uno vuole, però sottoporre una parte del giorno a disciplina, 3, 4, 5 ore, scegli tu, caro ragazzo, ma sottoponi la disciplina. Leggere moltissimo, guardare molto dei film cercando di capirli, cioè cercando di capire qual è il sottotesto, e sapere un'altra, conoscere un'altra lingua meglio della propria, cioè non imparare inglese o imparare il francese o imparare il tedesco, ma parlare, vivere molto all'estero, diventare cittadino europeo, cittadino del mondo, e abituarsi a pensare anche in un'altra lingua, soprattutto in un'altra lingua. Grazie a Paolo Mieli. Io ricordo il libro che è nelle librerie di tutta Italia da qualche giorno, Il caos italiano alle origini del nostro dissesto. Grazie. Buona domenica. OneExpress.it. Il pallet network italiano che viaggia in Europa vi presenta Nessuna è perfetta. Bentornati a Nessuna è perfetta. Noi continuiamo a parlare di giovani e di formazione con una Sunday Girl che, lo so, vi piace moltissimo. Bentornata tra noi a Nessuna è perfetta, Vanessa Incontrada, che non ha assolutamente bisogno di presentazioni. Ciao, buongiorno. Dal 2 novembre nelle sale con Non c'è campo di Federico Moccia. Vanessa Incontrada recita il ruolo della professoressa Laura, che tiene moltissimo la formazione dei suoi alunni, da portarli in gita in un paese del Salento. E poi cosa succede? Beh, succede che a un certo punto questi ragazzi e io arriveremo a Soprano, questo paesino in Puglia, e non ci sarà campo. Che la cosa incredibile, ti devo dire la verità, è che in realtà non c'era veramente, ti giuro, guarda, che è stato veramente, Non c'era campo, quindi per noi è stato un film nel film. Prima di chiederti quali sono state le tue personali reazioni quando ti sei trovata appunto col cellulare che non prendeva, non c'è campo, dal titolo del film. Vorrei chiederti, il film nasce da una constatazione quotidiana. I nostri figli, i cosiddetti nativi digitali, non possono vivere senza la loro appendice tecnologica. Non resistono qualche minuto, figuriamoci per giornate intere. E i ragazzi nel film come hanno reagito? Beh, i ragazzi nel film reagiscono all'inizio molto male, perché ovviamente che succede? Nel momento che tu gli togli un collegamento con il mondo, si sentono persi, si sentono che soli, si sentono che non possono più avere quel contatto, quella connessione con la quale sono abituati, quindi succederà una grande ansia fra questi ragazzi, no? Poi piano piano, tramite varie cose che succedono fra di loro, cose che succedono nel paesino, piano piano si scoprirà che comunque anche senza una connessione al di là di Scorrano la vita può andare avanti, che forse si ritrovano determinate cose che non davano più importanza, ecco, no? Quindi il titolo Non c'è campo rinvia anche a quella grande ansia della nostra stagione, il non essere connesso. Se uno non è connesso si sente tagliato fuori. Vorrei citare anche un episodio che mi ha colpito al punto da scriverne con un commento sulle pagine del Messaggero. È un episodio che è accaduto a Riccione qualche tempo fa, un grave incidente stradale, vittima un 24enne moribondo sul ciglio della strada, passa un altro giovane, un 29enne, che invece di prestare immediato soccorso inizia a filmare in diretta la morte di questo ragazzo. Beh, io penso che non c'è limite nel limite. Cioè, guarda, sorrido, che non sarebbe da sorridere assolutamente, per carità di Dio, ma non lo so che cosa può scattare nella testa di una persona, veramente non riesco a comprenderlo. Non so se è una questione di voler far vedere che cosa ha subito, non so se è una questione di voler far vedere determinate cose, ma ormai viviamo sui social pensando che più like e più follower hai e più sei importante, no? E più c'è gente che ti segue e più sei, non sei solo fra virgolette, ma in realtà è una, scusami la volgarità, è una stronzata, viviamo di altro, no? Quindi, però purtroppo è così, è una realtà, è una società che ormai è così, e la mia, penso, più grande paura di tutti noi è che non è che si può ritornare indietro. Imparare a essere più equilibrati credo che dipenda un po' da tutti noi, famiglie, scuola. La mia domanda è: chi ce lo insegna ad essere più equilibrati da questo punto? Cioè, chi insegna soprattutto alle nuove generazioni ad essere più equilibrati? Dovrebbero essere gli adulti, ma se gli adulti per primi non hanno questo equilibrio, secondo me non è, si butta un po' la colpa alla nuova generazione, no? Ma non è così. Io personalmente posso dire che non è così, lo vedo. Cioè, se tu vai a un ristorante o vai in qualsiasi luogo, chi ha perennemente il telefono in mano e chi è collegato perennemente al telefono non sono solo i ragazzini di 16 anni. Sono i genitori che non parlano con i figli. Nel film, inizia il film, io nel film sono sposata con Gianmarco Tognazzi e abbiamo una figlia, e una delle prime immagini che vedi nel film è siamo noi tre a cena e ognuno ha il telefono in mano e ognuno sta nel suo mondo e non si dialoga. È un'immagine comunissima, certo, però ti chiedo, tu sei madre, hai un figlio, come ti comporti con lui? Che esempio dai? Guarda, io allora, sicuramente il telefono, allora lui ha 9 anni, il telefono ancora non ce l'ha, però per esempio l'iPad, vabbè, i giochi, l'Xbox, queste cose qua sono un po' altre cose. Io gli do un po' le regole, cioè lui per esempio c'ha, se mi sentono al telefono mi dice mamma hai ragione, e ci litigo, lui ha un'ora al giorno per giocarci. Però da quando è piccolino a casa, io quando si mangia, quando si cena, televisione, telefoni non ci sono né per lui, né per me, né per suo padre, né per la tata, né per nessuno. Quindi quell'ora e mezza stiamo noi. Tu pensa che l'ho talmente abituato, ti devo raccontare questa cosa, che ogni tanto per lavoro purtroppo non ci sono, ogni tanto mi capita che lo chiamo all'ora di pranzo perché non riesco a chiamarlo in un altro orario, no? Quando lo chiamo a casa, lui mi dice: mamma, non posso stare al telefono, sto mangiando, al telefono non si sta quando si mangia. E voi che siete in ascolto, fateci sapere quali sono le vostre abitudini tecnologiche. Scrivete a nessunaeperfetta@radio24.it e commentate sui nostri canali Twitter e Facebook. Posso dire una cosa? Vi invito veramente, se non lo siete, per carità, poi ognuno ha la sua vita, nessuno vuole essere professore di nessuno, però vi invito a farlo, se non fatelo, perché veramente è un momento perlomeno che tu, ma senza parlare di chissà che cosa, però chiedi, parli, guardi, ridi, sei tu con gli altri, non so spiegartelo, capito? Ti guardi negli occhi con le persone che hai di fronte a te. Vanessa, non abbiamo approfondito le vostre reazioni di attori, della troupe, durante le riprese in Salento. Siete rimasti senza campo. Quanto tempo siete rimasti a Sorrano? 4 o 5 settimane siamo stati più o meno. Beh, all'inizio era anche per noi, sai, da una parte dovevamo aspettare di arrivare in albergo, perché lì c'era wifi, quindi non è che eravamo proprio scollegati, però quando giravamo c'erano dei punti proprio dove non prendeva. E quindi per me all'inizio devo dirti che è stata un po' una sofferenza, ma più che altro perché io ho un collegamento con la mia famiglia, con mio figlio, perenne con il telefono, no? È l'unica maniera che ho, soprattutto ora che ho scoperto WhatsApp in videocamera e FaceTime, che riesco a essere collegata con loro, no? Quindi ecco, togliermi quello per me è un po' dire: cazzo, oggi non vedo mio figlio, no? Visivamente, poi lo sento per telefono, anche se lì non potevo nemmeno sentirlo. Quindi ecco, il mio primo pensiero è quello, perché mi sento un po' scollegata da quello che è la mia vita privata, la mia vita familiare, capito? In Italia si parla spesso dei problemi relativi alla banda larga, si dice che l'Italia, soprattutto il sud, non è connesso come altri paesi, come la Gran Bretagna, però peraltro anche un paese economicamente solidissimo come la Germania non ha fatto molto per connettersi, forse proprio temendo l'eccessiva connettività. Comunque, la scarsa connessione, no? Lascia almeno spazio ai rapporti umani. Io devo dirti, non solo per i rapporti umani, a me se ogni tanto non mi prende il telefono, lì per lì all'inizio dico: porca miseria, il telefono non mi prende, ora che fa? Dopo 10 minuti che ho questo primo pensiero dico: ma sai che cosa? Aspetta, respiro un po', fammi respirare, se non mi prende, dico che ovviamente durante il giorno tutti noi abbiamo telefonate di piacere, ma anche telefonate di non piacere riguardo il lavoro, riguardo, non so, le cose che devi pagare, cioè tutta una serie di quello che è la vita normale. Porca miseria, se un giorno non sento nessuno, te lo assicuro, che dico: ah, meno male, domani un altro giorno. Prima di salutarci non posso non chiederti dove batteva il tuo cuore nei giorni del referendum catalano e in questi giorni in cui la separazione della Catalogna dal governo centrale di Rajoy è tuttora sulle prime pagine dei quotidiani con esiti del tutto imprevedibili. Beh, guarda, il mio cuore è ancora lì, devo dirti che ho una grande tristezza nel mio cuore, essendo catalana, di tante cose che stanno succedendo, per una persona, che io in questo caso sono catalano come me, vedere la mia patria che si è ridotta da questo punto di vista, che non voglio entrare se sono o non sono a favore, in qualsiasi sia la veste, se tu sei a favore o non sei a favore, è una cosa molto triste. E tutti i giorni, ti assicuro, io non ho un pianto nel mio cuore per quello che sta accadendo, perché rimarrà nella storia e rimarrà in noi catalani questa cosa. Una spiegazione davvero appassionata, quella di Vanessa Incontrada. Grazie per essere stata con noi e buona domenica. Grazie a voi, ciao ciao. Noi torniamo tra pochissimo. Nessuna è perfetta. Bentornati a Nessuna è perfetta. Continuiamo a parlare di ragazzi, dell'importanza di formarsi, di essere consapevoli, ma senza aspettare di avere 40 anni. Cominciamo da prima, da presto. E considerata, come dire, la gravità del tema, che prima o poi riguarda tutti, quelli che hanno figli, quelli che hanno fratellini più giovani, quelli che hanno nipotini, insomma riguarda tutti, riguarda il nostro paese. Ecco, in questa domenica non abbiamo come al solito la coppia di esperti, ma di esperti ne abbiamo uno solo, una sola. Buona domenica la ministra dell'istruzione Valeria Fedeli, protagonista Buongiorno. Nei giorni scorsi di un dibattito proprio sul senso di responsabilità dei genitori rispetto alla possibilità di andare a prendere a scuola i figli all'uscita delle scuole medie. Ma non è di questo che vogliamo parlare con lei oggi, ministra, anche perché ha avuto già modo di esporre il suo pensiero anche qui a Radio 24. Vorrei invece chiederle che cosa significa, in che cosa consiste il progetto Basta Bufale, ne ha parlato anche il New York Times peraltro, che insieme alla Presidente della Camera Laura Boldrini avete presentato in una scuola romana, perché è un progetto che punta appunto a rendere più consapevoli i ragazzi. Di che età, a chi si rivolge? Allora, la prima cosa che considero importante è che tutti dobbiamo essere consapevoli, quindi a partire dagli adulti, a partire dai docenti, dal mondo della scuola, quindi in questo senso è importante la nostra scelta del fatto che siamo nell'epoca di una innovazione, viene chiamata la quarta rivoluzione industriale, cioè della digitalizzazione, questa tecnologia che fa fare un salto complessivamente, trasversalmente, ad ogni forma di produzione, di comunicazione e quindi anche di apprendimento cognitivo. Guardate, questo è il punto. Quindi noi avevamo già iniziato, e questo ci tengo a dirlo, con la buona scuola, la legge 107, all'agenda nazionale, del piano nazionale digitale per la scuola, perché su questo terreno noi abbiamo già iniziato due anni a questa parte una alfabetizzazione a partire dalla formazione dei docenti ad avere degli esperti digitali dentro le scuole, perché su questo terreno noi dobbiamo dare strumenti di apprendimento, non solo di informazione, perché le ragazze e i ragazzi siano consapevoli, responsabilizzati, e quindi poi anche gli adulti, sull'utilizzo di questo strumento, che è uno strumento fondamentale. Può essere positivo, ma può essere anche negativo. Lei pensi, esatto, ministra, che proprio qui a Nessuna è Perfetta poco fa parlavamo con l'attrice Vanessa Incontrada, protagonista di un film che si intitola Non c'è campo, in cui veste appunto i panni di una professoressa che porta in gita la sua scolaresca in un posto dove non c'è campo, e per alcuni giorni questi ragazzini vivono l'esperienza di essere privi delle loro appendici tecnologiche. Esatto, però vede, proprio questo mi porta a dire l'importanza di questa alfabetizzazione, che non è solo consapevolezza, ma è proprio anche strumenti nuovi di apprendimento, nuovi skills per utilizzare nel migliore dei modi possibili la straordinaria opportunità che ci pone. Tra l'altro noi stiamo recuperando celermente un gap che anche su questo abbiamo verso paesi che sono già più avanzati da questo punto di vista. Dato questo schema di innovazione didattica e di apprendimento, all'interno di questo ci sono diverse azioni che noi come Ministero abbiamo già fatto e che continueremo a fare, che è esattamente anche quello di dare strumenti ai ragazzi per sapere intanto che il digitale, stare in rete, deve corrispondere al fatto che lo utilizzi nel linguaggio, lo utilizzi nella modalità anche proprio di scambio con le amiche o con gli amici, come se tu lo facessi direttamente, visualmente. Perché? Perché il primo dato è che devi sapere che un like, una cosa che posti sul digitale, per esempio su Facebook, poi non la cancelli più, può fare un danno sia nelle parole sia nelle immagini. Dobbiamo sapere attraverso questo che contrastiamo anche il cyberbullismo, oltre che gli atti di bullismo si vedono. Terzo, fondamentale, dico dall'inizio del mio mandato che oltre ad imparare a restare sul digitale bisogna andare alla autorevolezza, alla certificazione delle fonti. Questo è e sono e devono sempre di più essere elementi più di conoscenza, di istruzione. Perché se no un ragazzino di 13 anni, 14 anni può pensare che tutto quello che trova sul web sia vero. E qui è il basta bufale. Ecco, tendo... Come funziona il basta bufale? Ci sono dei controlli, dei check su quello che passa sulla rete? No, è per questo che voglio dirle che intanto significa far proprio comprendere ai ragazzi che bisogna sempre approfondire. Quindi è un elemento proprio conoscitivo. E allora si faranno tanti esempi nelle scuole. Tu, per esempio, prendiamo l'ultimo elemento che è avvenuto, quello dei vaccini, piuttosto che altri elementi, dobbiamo far dimostrare, utilizzando ciò che già c'è in rete, che un'informazione non è per sé veritiera se chi non vai a fondo, diciamo tra chi la dice, qual è la fonte a cui si aggancia, dov'è la certificazione. Lei sa che in diversi paesi europei c'è proprio un meccanismo che certifica attraverso un codice la validità della fonte. Ecco, questo è un percorso che noi dobbiamo assolutamente fare. Il basta bufale, che in realtà significa ti do gli strumenti, perché tu devi andare sempre a fondo di ogni informazione, non scambiandola per certezza, per formazione, per veridicità. Quindi è proprio, se mi posso permettere, un apprendimento, come quando tu, tempi antichi, potevi fare una notizia, quindi leggere non in digitale ma su una, anche su un foglio di carta, e l'importante è spingere ad andare ad approfondire, a ricercare sempre le fonti. Questo è il grande insegnamento. Sotto anche strumenti, per dire, se tu metti un like, è chiaro che puoi ingigantire o far rendere più veritiera una notizia quando, cioè, non l'hai nemmeno verificata. Si tratta di responsabilità, si torna sempre a quel si punto. Si torna alla responsabilità, ma anche a strumenti nuovi di conoscenza su come si deve stare sul digitale. Insomma, il digitale è come se fosse una straordinaria enciclopedia. Si trovano tantissime informazioni, quindi anche molte cose scientifiche, ovviamente, ma tu devi avere gli strumenti per selezionare ciò che è buono da quello che non è. Tema. E questo, diciamo, è il punto per risalire all'autorevolezza. Dopodiché c'è anche un modo di consapevolezza che il digitale e, per esempio, Facebook o altri strumenti sono anche la permanenza di alcune cose che tu stesso metti nel digitale. E che devi, tu metti devi stare molto attento, ragazzi, a quello che fai. Brava, dobbiamo insegnare loro anche questo, perché a volte non sanno che ciò che mettono in rete, che per loro magari è soltanto un gioco, in realtà poi può diventare una tragedia, un linguaggio d'odio, appunto un like su uno che magari insulta qualcuno. Certo. Ecco, dobbiamo, se mi posso permettere, anche proprio una educazione al rispetto degli altri. Comunque le chiederò se per caso avrà tempo di andare a vedere il film con Vanessa Incontrada nel ruolo della professoressa, perché a parte farsi magari due risate, che credo ne abbia anche voglia. No, ministro, sì, sono stati mesi un po' pesantucci. Sì, senta, la lascio con una immagine. Lei seduta per terra con gli studenti che manifestavano contro l'alternanza scuola-lavoro. Sì. Avete fatto un piccolo passo avanti? Vi siete un po' chiariti? Io cerco sempre di chiarirmi con chi mi dà degli elementi di esperienza negativa, perché dove c'è negatività sull'esperienza alternanza scuola-lavoro non ne hanno responsabilità gli studenti, ma vuol dire che ci sono le scuole che non fanno qualità di progettazione dell'alternanza scuola-lavoro e ci sono i luoghi che accolgono le ragazze e i ragazzi in alternanza che non fanno qualità formativa, perché nella stragrande maggioranza dei casi invece la qualità formativa è il punto che registriamo di efficacia di alternanza scuola-lavoro. Quindi noi stiamo andando avanti per monitorare, sostenere qualità di questa straordinaria e importante innovazione didattica che la buona scuola ha immesso. Che conviene assolutamente sia ai ragazzi, proprio per quel senso di responsabilità di cui dicevamo all'inizio, sia alle aziende che cominciano a capire anche di nuove conoscenze, di nuove competenze, di nuovi derivano, per esempio il problem solving, per esempio il fatto di conoscere cosa significa programmare un'attività in qualunque luogo di lavoro, può essere un'impresa, può essere il terzo settore, può essere un servizio sociale, negozio, può essere un certo museo, cioè qualunque realtà di lavoro, perché significa esattamente nuove competenze che loro possono apprendere. Ed è un punto importante, perché è un punto che ci avvicina ad esperienze formative importanti di altri paesi europei. Grazie, grazie al ministro Valeria Fedeli e buona domenica, grazie. Altrettanto a voi, buona domenica. Ibrido Toyota, la scelta inevitabile per il tuo business. Vi presenta. Nessuna è perfetta. Bentornati, questa è l'ultima parte di Nessuna è perfetta. Come sapete, quella dedicata ai consigli della nostra coach. Noi abbiamo parlato di adulti e giovani, di come l'esempio degli adulti possa aiutare o no i giovani in tempi tecnologici. Abbiamo affrontato questo fil rouge con Vanessa Incontrada, la professoressa del film Non c'è campo. Abbiamo parlato con la ministra Valeria Fedeli, che proprio in questi giorni ha fatto un tour per le scuole italiane per far capire che le nuove tecnologie sono una straordinaria opportunità, ma possono diventare anche uno straordinario pericolo. Abbiamo cercato di capire come la storia d'Italia possa spiegare un po' anche delle passioni tiepide dei nostri ragazzi. L'abbiamo fatto con Paolo Mieli. E ora è il momento della nostra coach, Carla Ciani. Buona domenica Maria, buona domenica a tutti. La prima pillola serve per ricordarci, se mai ce ne fosse bisogno, che se c'è qualcosa che davvero può modificare i comportamenti, certamente questa cosa è l'esempio. E gli adolescenti, come sappiamo, sono ipercritici rispetto a ciò che dichiariamo e la coerenza dei nostri comportamenti. E più o meno volontariamente gli abbiamo dato noi un imprinting, come dire, tecnologico, per esempio mettendogli in mano fin da piccoli un tablet, magari per farli stare buoni al ristorante, o perché loro ci hanno visti da sempre con quell'oggetto in mano al quale diamo così tanta attenzione, tant'è che la telefonata, per non parlare del touch, sono i comportamenti più emulati dai bambini piccoli. Gli adolescenti non hanno ricordi di un mondo senza internet, perciò se proprio noi abbiamo l'ansia di controllare continuamente il nostro smartphone, se siamo pronti al selfie prima ancora di renderci conto dove siamo davvero, se andiamo nel panico se non c'è campo, se diamo risposte di lavoro fuori contesto, e insomma se lo appoggiamo sulla tavola come se avessimo ospite il mondo intero, allora sarà difficile essere credibili quando pretenderemo un comportamento diverso dai nostri figli. Inoltre a molte persone piace compiacersi delle abilità tecnologiche di un figlio, proprio perché la nostra storia è diversa, ed essere abili nella tecnologia era un prestigio. E sempre per la coerenza non possiamo però compiacerci e poi avere atteggiamenti punitivi sull'uso della tecnologia. La seconda pillola ci farà smettere, soprattutto con i figli adolescenti, di colpevolizzare internet, la tecnologia, o considerarla come se fosse una meteora che ci è piombata sulla testa. Dobbiamo invece ricordargli che abbiamo sempre cercato l'incontro, la conoscenza, la condivisione, e l'abbiamo fatto per tanto tempo navigando realmente, e ancora oggi diciamo navigare in internet. Parliamone quindi con i figli come di una conquista, avere la possibilità di una relazione così ampia, poter comunicare finalmente con tutte le nostre forme, con la parola scritta, voce, con le immagini e con i suoni, ci dà benefici infiniti, così come però dobbiamo conoscere anche bene i rischi. Diciamogli che come per tutto ciò che conquistiamo o realizziamo, la tecnologia non è buona o cattiva, dipende dall'uso che ne facciamo. E ora fortunatamente arrivano anche queste iniziative per le scuole per integrare in modo strutturato questi strumenti nella cultura, e in più i ragazzi così sperimenteranno una connessione sempre più reale, no? E non una separazione tra le varie attività della loro vita. E la terza pillola ci ricorda che l'adolescenza implica il naturale distacco, la ribellione, il rifiuto delle regole. Poi questa è la terza pillola. Certo, la cosa che è cambiata è che la madre, il genitore, vuole prima di tutto essere gradito, si sente premiato dal rapporto amichevole, dalla condivisione. Cioè il figlio che condivide è ok, il figlio che non condivide non è ok. E questo con l'adolescente può solo creare altrettanto distacco. Il genitore invece non deve dimenticare il suo ruolo educativo, che implica delle regole che servono per avere un beneficio. Stare svegli la notte sottoposti agli stimoli di un videogame o di conversazioni o di immagini non consente un giusto riposo ed è corretto che il genitore intervenga allenando il ragazzo a riflettere sulla come dire, negoziazione tra i costi e i benefici delle sue scelte, oppure intervenga con la giusta dose di autorità. E infine dovremmo veramente sperimentare il non c'è campo, ricordando ai ragazzi che siamo tutti davvero dipendenti dall'energia e che non possiamo non contare sulle nostre capacità. Così potremmo istituire dei momenti qualche giorno, nella giornata, ad esempio a cena o a colazione, anche di pochi minuti, in cui ci diciamo dal vivo qualcosa che magari abbiamo giusto saputo o condiviso online. Buona domenica Carla Ciani, la nostra coach, e buona domenica a tutte buona voi che ci avete tutti. Seguito. E basta multitasking.